La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, benvenuti alla Quota Rosa. In questa prima parte parliamo dei Dido Re, il progetto di legge per le coppie di fatto proposto dal ministro Brunetta e poi presentato come progetto di legge dagli onorevoli Lucio Barano e Franco De Luca del Popolo della Libertà. Una proposta di legge, diritti e doveri, reciprocità dei conviventi, ma nel Popolo della Libertà, per esempio, AN non è d'accordo. Maurizio Gasparri dice i Dido Re non si faranno. Allora, a Isabella Bertolini, onorevole del Popolo della Libertà, membro della Commissione Affari Costituzionali, chiediamo: ma il centrodestra, insomma, litiga sulle coppie di fatto come nella scorsa legislatura il centrosinistra litigava sulle coppie di fatto? No, non è vero, chiariamolo subito per chi ci ascolta, non si litiga, ha ragione il Presidente Gasparri, la questione delle coppie di fatto, quindi Pax, Dico, Cusso, Dido Re, non fa parte dell'accordo di governo e neanche di un accordo di maggioranza, quindi per quanto riguarda il centrodestra questo non è in discussione, c'è un'iniziativa parlamentare, peraltro non ancora ben formalizzata perché la proposta è stata presentata in ottobre e poi dopo ritirata, deve essere riformulata, da parte di alcuni parlamentari del Popolo della Libertà che stanno discutendo su iniziativa dei ministri Brunetta e Rotondi di questa tematica, però questo non fa parte delle prossime scadenze e la posizione del centrodestra è molto chiara perché noi, come ci siamo battuti nella passata legislatura in difesa della famiglia tradizionale contro delle leggi pasticciate, continueremo a farlo anche in questa. Il ministro Brunetta dice i Dido Re sono coppie di fatto, diritti ma senza costi. Senatrice Giuliana Carlino dell'Italia dei Valori, voi come vi ponete per una legge sulle coppie di fatto? Allora, noi come Italia dei Valori siamo per riconoscimento di un sistema di diritti e doveri per le coppie di fatto, anche eterosessuali, anche omosessuali. E l'importante è che per gli omosessuali, diciamo, è impensabile per il momento un matrimonio vero e proprio, perché da cattolica, perlomeno io, da cattolica praticante, ritengo che il matrimonio sia un sacramento, quindi la coppia classica va benissimo, anche se non sposati ma conviventi, è giusto che abbiano il riconoscimento di tutti i diritti e soprattutto garantiamo loro i diritti per la casa, la reversibilità della pensione in caso di decesso di uno dei due conviventi. Occorre legiferare perché in Italia non è garantito a tutti questi diritti che gli altri, le famiglie tradizionali hanno. Quindi riteniamo che bisogna legiferare presto per il riconoscimento di un sistema di diritti per le coppie conviventi. Il ministro per le pari opportunità Mara Carfagna ha detto che pur sottolineando che una legge sulle coppie di fatto anche omosessuali non è nel programma di governo, però ha anche detto che sui diritti delle persone non tollera scontri. Allora, diciamo che il ministro Brunetta ha sottolineato che non sono né Dico né Pax, perché nel centrosinistra, con il pretesto dei diritti, la sinistra intendeva puntare al welfare, in particolare alle pensioni di reversibilità, e invece praticamente i Dido Re non prevedono oneri per lo Stato. Avvocato Pompilia Rossi, esperta di diritto di famiglia, nella sua esperienza come avvocato c'è bisogno di un patto sulle coppie di fatto? Etero, omosessuali, non importa, si sente lei come avvocato per esempio molto spesso domandare: ma perché non c'è una legge che ci tutela, che tutela dell'unione che sono fuori dal matrimonio? Ma assolutamente sì, devo dire che questa è una esigenza che sentiamo noi avvocati, ma sente soprattutto la società che è in continua evoluzione. Oggi sono di gran lunga maggiori le coppie di fatto piuttosto che le coppie coniugali derivanti o da separazione o da scelte, diciamo, soggettive, e se ne sente l'esigenza, anche perché non ci dimentichiamo che le unioni civili in Europa e nel mondo sono ormai regolamentate da tantissimo tempo e l'Italia continua ad essere un fanalino di coda. Non ritengo, non voglio ovviamente fare un discorso di ordine politico, tengo a precisarlo, ma non ritengo per esempio che questi 8 articoli dei Dido Re possano sicuramente risolvere il problema. È sicuro che deve essere rivista, rivisitata, non fa parte del programma di governo, però sono articoli vincoli che vanno, come dire, un po' a dare un contentino senza una vera e propria regolamentazione, tenendo presente che didorè significa diritti, doveri di reciprocità dei conviventi. In realtà non è che c'è una grande descrizione di questi diritti e doveri, perché prevedono il diritto in caso di malattia di visitare il convivente e accudirlo, di designarlo come rappresentante per le decisioni in materia di salute, di succedergli nel contratto di locazione, e un dovere di mantenimento per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Tengano presente gli ascoltatori che una materia di così vasta scala, che deve regolamentare qualunque tipo, diciamo, di rapporto e di situazione, non può essere come è nei didorè di 8 articoli. Insomma, adesso, a prescindere dal numero degli articoli, ritengo che debba essere realmente più approfondita da un punto di vista normativo questa situazione, anche per equipararci, ma non solo all'Europa. Io voglio ricordare che addirittura il matrimonio da omosessuali, questo soltanto per dire, diciamo, un elemento, dal novembre 2006 è diventato normativa anche in Sudafrica. Insomma, quindi ci sono dei paesi che hanno adottato l'unione registrata, altri non hanno adottato l'unione registrata, ma hanno comunque sentito l'esigenza di regolamentare. Pochissimi paesi non hanno questa regolamentazione, l'Italia è tra questi. Insieme all'Italia abbiamo l'Albania, la Bulgaria, la Bielorussia, il Montenegro, la Polonia, ma al di là di questo è veramente necessario regolamentare l'attuale società, che vede soprattutto convivenze. E allora sentiamo un attimo Isabella Bertolini, Popolo della Libertà. Non rischiamo, abbiamo sentito l'avvocato Pompilia Rossi nella sua esperienza come avvocato, non rischiamo di essere un po' un paese retrogrado rispetto a quello che è la legislazione nei paesi del Nord Europa, ma anche in Spagna? Assolutamente no, io non penso che un paese sia più evoluto perché c'è una legislazione su questa materia piuttosto che non averla. Cioè, qui bisogna capirsi su che cosa noi intendiamo per famiglia. Noi siamo per la famiglia tradizionale, che per noi è un valore fondante della società, e per noi la famiglia è quella che si basa sul matrimonio tra un uomo e una donna, anche questo vorrei chiarirlo, quindi noi siamo assolutamente contrari a un'equiparazione delle coppie di tipo omosessuale con quelle eterosessuali, quindi basata sul matrimonio tra un uomo e una donna, così come sancito dalla nostra Costituzione, che è l'articolo 29, e anche su questo ci tengo a ribadirlo, che non stiamo parlando di matrimonio religioso, che è un sacramento, e questo è un problema che riguarda coloro che professano la fede, che sono cattolici. Noi stiamo parlando di matrimonio civile. I didorè sono così in contrasto con il matrimonio? No. I didorè sono una cosa che non ha assolutamente senso, perché tra l'altro si parla di un'unione di persone che sono legate da un legame affettivo di solidarietà ai fini di una reciproca assistenza. Questo che cosa vuol dire? Assistenza di tipo materiale o morale, quindi anche due amiche, anche due conoscenti, quindi anche due persone dello stesso sesso, di sesso diverso, ma non legate per esempio da un rapporto amoroso. Cioè, noi qua stiamo dissodando completamente quello che è il nucleo fondamentale della nostra società. Per noi la famiglia è quella basata sul matrimonio, e siccome c'è per chi si sposa un impegno pubblico che viene in qualche modo preso e assunto, lo Stato ti garantisce dei diritti. A fronte di questi diritti però le due persone sposate hanno dei doveri. Le persone che scelgono invece un regime di libertà, quindi un'unione di fatto, mettono in campo un comportamento privato assolutamente rispettabile, ma che non può avere le stesse tutele giuridiche di chi invece si è assunto degli obblighi. Quindi noi non vogliamo dare tutele né simili né equivalenti, visto che non ci sono gli stessi doveri. Su questo siamo molto chiari. Ciò non significa però non dare un riconoscimento ai diritti dei singoli, e si può in questo agire sul codice civile senza dover stravolgere la normativa che riguarda invece la questione famiglia o il matrimonio. Questa è la battaglia del centrodestra, che non vuol dire discriminazioni o trattare in modo diverso le persone, però non si possono equiparare istituti che sono completamente diversi. Italia dei Valori, come voterete in un'eventuale discussione sui didorè che si accenna molto molto difficile, appunto, mi sembra didorè come i DICO, come i PAX, eccetera. Ecco, didorè così come sono strutturati adesso, secondo noi, non servono a nulla. Senza oneri per lo Stato, si dice, senza funghi non si fa nessun matrimonio, insomma, troppo restrittiva la cosa. Bisogna spendere, riconoscere diritti e doveri a tutti, e senza oneri per lo Stato mi sembra che la cosa non possa proprio stare in piedi. Bisogna riconoscere le famiglie, d'accordo, però anche la coppia che di fatto vivono insieme da anni, hanno bisogno di avere gli stessi diritti, quindi tutelati alla stessa maniera di chi ha avuto un matrimonio vero e proprio. Io ripeto quello che ho detto prima, non sono d'accordo per i matrimoni omosessuali, però dobbiamo riconoscere le coppie di fatto, che sono ormai tantissime in Italia, e siamo, come diceva l'avvocato prima, il fanalino di coda. Occorre legiferare al più presto, che la destra voglia o meno, dobbiamo trovare un punto d'accordo. Ma coppie di fatto anche dello stesso sesso? No, dello stesso sesso non lo ripeto, io sono cattolica, magari qualcuno nel mio partito la pensa diversamente anche da me, siamo un partito eterogeneo con varie mentalità, diciamo, varie punti di vista diversi, varie un'etica secondo la propria morale, insomma. Vabbè, insomma, voi comunque al limite votereste a favore di Il riconoscimento di un sistema di diritti per tutti, per le coppie di fatto. Questo lo tengo a sottolineare, diritti per tutti. Quindi occorre una vera regolamentazione, perché l'attuale società, come diceva l'avvocato, ha tante famiglie che ormai convivono così, sono coppie di fatto, quindi è giusto che vengano riconosciuti e vengano dati anche a questi la casa, la pensione, la reversibilità, certo, di tutto. Chiudiamo un minuto con l'avvocato Pompiglia Rossi. Qualora ci fosse un richiamo dell'Europa, l'Italia si dovrebbe adeguare? Beh, io direi proprio di sì, perché diciamo che nel momento in cui c'è un richiamo da parte dell'Europa su questa situazione, come è successo per altre tematiche, vi è l'esigenza di adeguarsi, anche perché la convivenza, la forma di convivenza tra due persone che sono legate da vincolo affettivo non può ovviamente essere dipendente soltanto dal vincolo sacro del matrimonio. Ripeto, in Europa la situazione è ormai codificata da tempo, teniamo presente che ci sono situazioni ormai oggetto di normativa già dal 92 e noi siamo nel 2008 e ancora stiamo discutendo della successione del contratto di locazione tra due conviventi, per cui si sente l'esigenza. Io ritengo che l'esigenza non venga sentita soltanto da noi operatori del diritto, magistrati, ma proprio dalla gente, dalla società, insomma. Certo. La quota rosa. E parliamo in questa seconda parte di due ministre sotto i riflettori. La prima è Carme Chacon, che è arrivata in smoking ad una cerimonia ufficiale della Pasqua militare, e la seconda è Rachida Dati, la ministra supermamma francese, che ha partorito, è tornata a lavoro dopo 5 giorni e non si sa chi è il padre. Ma c'è anche un'altra storia che riguarda la Svezia. Victoria di Svezia ha 31 anni, non si vuole sposare se non c'è il vero amore, e questo pone dei problemi particolarmente seri sulla successione al Regno di Svezia. Per parlare di queste nuove figure che sono venute fuori sia in politica sia invece in un ambiente più sempre politico, ma sicuramente più compassato come quello del Regno di Svezia, abbiamo con noi Roselina Salemi, giornalista della Stampa, Cristina Cappellin, corrispondente svedese in Italia per Dagens Industri, Ariel Dumont, corrispondente francese in Italia per il settimanale Marianne. Allora, iniziamo intanto con Roselina Salemi, giornalista della Stampa, che si è occupato della supermamma, la ministra francese Dati. Ha partorito una bambina, ma non si sa chi è il padre, oppure si sa e non si può dire, Roselina? Le ipotesi sono tantissime. Ieri i giornali francesi si erano sbizzarriti, hanno parlato del fratello di Sarkozy, hanno parlato di Aznar, che però ha smentito. In realtà non è tanto rilevante a questo punto il padre, è rilevante questa onnipotenza materna. Cioè, Rachida Dati ha voluto un figlio, era una donna di oltre 40 anni, quindi sapeva di non avere tantissimo tempo davanti, l'ha desiderato fortemente, ha fatto questo figlio, che è una bambina molto carina, si chiama Zora, ha avuto un cesareo, è stata in clinica il tempo giusto, minimo indispensabile, ha portato a casa la bimba ed è andata al Consiglio dei Ministri. Quindi in realtà non le serve un marito, non le serve niente, ha dimostrato la sua onnipotenza. Io faccio il ministro, faccio i figli, partorisco, vado al lavoro. È una sorta di, non di Wonder Woman, ma di X-Woman addirittura. 43 anni, ministro francese della giustizia, però è un pochino strano che non si sa chi è il padre per un ministro. In Francia hanno fatto tantissime insinuazioni, per esempio hanno detto che la clinica dove lei è stata seguita è anche una clinica della fertilità, qualcuno ha anche lanciato l'idea di un'inseminazione artificiale. Lei è abbottonatissima su questo, non vuole assolutamente dire chi è il padre, ci sono state varie smentite e a questo punto tutte le ipotesi sono valide, però se qualcuno ha visto le sue foto, lei è molto contenta. Però perché non dirlo? Essendo un ministro, essendo una persona che ha a che fare con... Le ipotesi sono che si tratti di un uomo che, con cui la storia è finita e che non vuole assolutamente saperne di essere padre di questa bambina, oppure che lei se lo sia fatto da sola con inseminazione artificiale. Le cose sono più o meno stanno così ed è sicuramente un aspetto misterioso, ma il fatto curioso e interessante è che tutto questo non è come sarebbe stato un tempo fonte di scandalo, ma fonte di orgoglio femminile. Io trovo che questo sia la cosa più importante, più del pettegolezzo. Tu quindi praticamente assolvi Rachida Dati. Ma io tendenzialmente sono un buonista, io assolvo tutte le donne che decidono di lanciarsi in imprese disperate come quello di essere tutto, di volere tutto. Poi qualcuna ce la fa, qualcuna che ne esce con le ossa rotte. Credo che le donne forti di questi tempi ragionino così: se ho una chance me la prendo comunque, qualsiasi cosa accada, e dimostro che ce la faccio. È la stessa chance che Victoria di Svezia ha deciso di prendere, ha 31 anni, ma lei vuole aspettare a sposarsi per trovare il grande amore. Che problemi pone questa decisione? Lo chiediamo quindi a Cristina Cappellin, corrispondente svedese in Italia per Dagens Industri. Ma guarda, la situazione che io sappia è più o meno questa, che lei da 6 anni ormai è fidanzata, diciamo, inufficialmente con un normalissimo svedese che si chiama Daniel Westling, un ragazzo di una cittadina un po' al nord di Stoccolma. Lui è un cosiddetto personal trainer, ha avuto un po' di palestre e insomma è un ragazzo qualsiasi e non è, diciamo, è grato alla famiglia di Victoria, soprattutto il padre apparentemente, ma sto al gossip perché le vere ragioni non si sa, non vuole che lei si sposi in questo modo, cosa anche un po' strana visto che lui stesso ha sposato una donna borghese, si chiama Silvia Sommerlath, è una tedesca, brasiliana, appunto senza nessun tipo di né casa reale né casa nobile dietro le spalle, ma in ogni caso questo Daniel non è gradito praticamente e quindi non si può sposare, credo che non sia così tanto che non vuole, non può. Ah, quindi è la famiglia che si oppone a un matrimonio che considera sbagliato. Esattamente. Però Victoria è anche una persona particolare, è stata una donna che ha sofferto anche di anoressia, è riuscita a sconfiggere questa terribile malattia e comunque questa sua decisione, almeno a quanto si dice, fa sì che la sorella più piccola non possa sposarsi. Ma infatti è così, che finché lei non sposi non si possono sposare né la sorella né il fratello, lei ha anche un fratello di 2 anni meno di lei. Sì, lei è per molti versi credo una rappresentante buona della monarchia svedese, che di per sé è un po' una specie di, come posso dire, una cosa abbastanza strana in uno dei pochi paesi realmente socialisti del mondo, ma comunque abbiamo questa casa reale che è molto amata. Lei, grazie a un cambiamento della Costituzione nell'80, ha potuto diventare erede al trono ed effettivamente sarà capo di Stato, che in Svezia non vuol dire tanto, nel senso che non ha nessun potere, però comunque rappresenta la Svezia adesso quando il padre non c'è. Una volta quando il padre va in pensione sarà lei la reggente, diciamo, ed è una che si occupa di cose anche interessanti, tra cui appunto ha parlato molto apertamente dei suoi problemi di disturbi alimentari, si occupa di sviluppo, di questioni di pace, di questioni che riguardano i bambini e giovani handicappati, quindi per molti versi è una faccia giovane, interessante, abbastanza intelligente di una, diciamo una giovane principessa che diventerà regina. Però ancora non si è fatto l'altro salto, cioè il fatto di riuscire, oltre a essere l'erede al trono, primogenita donna, quindi tu mi dicevi c'è anche un fratello, normalmente sì. Nella vecchia legge sarebbe andato al privilegio, sì. Sarebbe stato quello lì maschile, uh-huh. Quindi questa cosa è molto all'avanguardia anche nelle monarchie, vabbè, ma la Svezia è un paese all'avanguardia da sempre, come hai detto tu, però questo amore tormentato non trova consenso a corte, quindi ogni tanto invece riviene fuori la tradizione, è molto strana questa cosa. Sì, una strana, veramente anche io lo trovo molto strano che da un lato appunto si decide, e tra l'altro è il governo che decide di cambiare la legge in favore all'erede donna, no? E dall'altra parte appunto non si dà la libertà a questa donna di fare la sua scelta di partner, e se tu guardi, se ti guardi intorno in Scandinavia, anche la Danimarca e la Norvegia sono ancora monarchie, e lì invece gli eredi al trono, che sono maschi, hanno potuto sposare donne, appunto, ripeto, non né appartenenti a qualche famiglia reale né nobili. Quindi è un po' inspiegabile questo niente a Victoria. Ritorniamo un attimo in Francia per poi andare in Spagna. Ariel Dumont, corrispondente francese in Italia per il settimanale Marianne. In Italia la ministra supermamma Rashida Dati, che non dichiara chi è il padre di suo figlio, sarebbe sicuramente uno scandalo. In Francia come viene presa questa notizia? Io direi che in Francia comunque sono soprattutto i giornali specializzati nella stampa rosa che se ne sono occupati. Qualche quotidiano serio, qualche settimanale serio effettivamente all'inizio si è interrogato, però questa cosa è passata subito in secondo piano, perché diciamo che in Francia si parte dal presupposto che comunque lei una sua vita privata ha il diritto di averla, ha il diritto di dire o di non dire chi è il padre, e che tutto sommato è una cosa che riguarda solo lei ed esclusivamente lei, che non c'entra assolutamente nulla con la sua attività diciamo pubblica. Invece un'altra cosa, non sono del tutto d'accordo quando si dice che lei ha dimostrato di essere una super mamma, una mamma taglia X, decidendo di uscire dalla clinica dopo 5 giorni e di tornare subito al lavoro. Personalmente non credo che lei abbia voluto dimostrare: io sono ministro, faccio quello che mi pare e sono una super donna. Il problema non è assolutamente questo, è tutto un altro. Rashida Dati attualmente è un po' in disgrazia, ha dei grossi problemi. Si è parlato molto spesso di un cambio di ministri, della possibilità che, come si chiama Sarkozy in Francia, il principe avrebbe potuto decidere di rimuoverla, e quindi diciamo che il fatto di uscire dopo 5 giorni e tornare di corsa al lavoro era veramente un fatto impellente per lei, per essere presente, per essere sul posto, per far atto di presenza, e soprattutto lei essendo una donna di potere, ma nel senso vero, una vera donna di potere che conquista, che vuole, che sta cercando di costruire il suo futuro, per diciamo cogliere l'attimo nel caso in cui si dovesse cominciare a parlare di cambi di ministri. Ad esempio, lei ha saputo ieri mattina durante la cerimonia che c'era stato un cambio nel sistema giudiziario, quando l'ha annunciato Sarkozy durante la cerimonia. Lei prima non sapeva assolutamente niente. Quindi ci sono stati vari segnali politici che la mostravano in grande difficoltà verso Sarkozy, e quindi che rimettevano in gioco tutta la sua posizione politica e il suo futuro, e per una donna di potere questo non può essere, quindi bisognava assolutamente tornare di corsa. Ma perché è caduta in disgrazia? Ma perché è caduta in disgrazia? Si dice che potrebbe essere il fatto della sua inimicizia con Carla Bruni Sarkozy. Si dice che probabilmente, e questo sarebbe una spiegazione forse molto molto più seria e molto più credibile, che il suo operato come ministro da una parte non sia stato veramente quello che ci si aspettava. Lei ha un carattere molto difficile, quindi ha litigato con tutto il suo gabinetto, addirittura molti dei suoi collaboratori hanno dato le dimissioni. dimissione e se ne sono andati. Lei ha tutta la magistratura contro, cioè è una donna, diciamo, che forse al posto di ministro della giustizia non era destinata, quindi ha creato più difficoltà che altro e di fatto in questi giorni si parla molto della possibilità per lei di essere capolista per le elezioni europee, quindi se fosse il caso sarebbe diciamo un piccolo ritorno in grazia e soprattutto una grande porta aperta per un altro futuro politico, perché sicuramente Rachida Dati ha altri sogni, altre speranze che accontentarsi di una poltrona della poltrona della giustizia. La quota rosa. E andiamo in Spagna, dove la ministra Carmen Chacón si è presentata in smoking in una cerimonia ufficiale, dove invece era previsto per una donna un abito lungo. Almeno, insomma, questo è quello che si contesta a una ministra della difesa che in gravidanza al settimo mese si è recata anche manifestare il proprio sostegno ai militari spagnoli in Afghanistan con medico al seguito. Insomma, un personaggio piuttosto forte anche questo. Allora sentiamo un attimo qual è l'opinione di Gloria Moreno Salvo, corrispondente spagnola in Italia per Europa Press. Com'è la ministra della difesa spagnola? Penso, diciamo, che questa polemica che si è scatenata è un po' assurda, diciamo non un po', ma abbastanza assurda, perché stupisce abbastanza che oggi come oggi ci siano questi tipi di controversie fatte su temi che secondo me sono abbastanza anacronici. E tra l'altro io penso che veramente Chacón ha voluto dire la sua facendo in questo modo, vestendosi in questo modo e rompendo un protocollo che fino adesso era stato praticato. È vero che lei è la prima donna che ha dovuto stare in questa parata militare al capo del Dipartimento di Difesa della Spagna, per cui anche, diciamo, quella è la prima novità, no? Sì, io penso che Chacón con questo ha voluto dare un segno, diciamo che io penso che lo ha fatto, diciamo, apposta, e veramente stupisce questo, appunto, che ci sia stato qualcuno che l'abbia indicato per vestirsi come vuole, anche se in un modo elegante, anche se non di lungo, ma elegante. Lei era molto elegante, era la cerimonia il giorno dell'Epifania, la Pasqua militare, e diciamo che sono stati un po' i militari a criticare questo abbigliamento, perché lei aveva chiesto l'autorizzazione alla Casa Reale, giusto? Addirittura c'è bisogno di un'autorizzazione alla Casa Reale per mettersi un paio di pantaloni? Sì, no, lei aveva fatto richiesta, diciamo, al suo gabinetto di protocollo per sapere se quello era adatto, e il gabinetto di protocollo del Ministero di Difesa ha detto di sì, che questo, diciamo, che in questo modo qua, con uno smoking femminile, lei ci poteva andare. È vero che, diciamo, sì, secondo le regole del protocollo della Casa Reale, lei doveva portare un vestito lungo, dice traje lungo, largo, che appunto sarebbe questo vestito lungo. Quelli più ortodossi sarebbe sbagliato andare con un femminile, e invece per il Ministero della Difesa spagnola è adatto. Quindi un polverone fatto da chi? Dagli avversari politici di Zapatero, del Premier? No, io penso in realtà no, perché poi per esempio una ministra, la Presidenta della Comunità di Madrid, che è la Esperanza Aguirre, che è giusto all'altro lato del partito dell'opposizione, ha apprezzato molto il gesto di Chacón e ha espresso anche, diciamo, la sua indignazione verso la polemica che si è scatenata, perché una donna diciamo con una carica importante veste come vuole in un momento come quello. Per cui io penso che è stato più, non so, di persone forse più dell'ambito militare, che penso da dove sono venute le critiche, che hanno detto che questo modo di agire non era, diciamo, era un modo di infringere la disciplina dell'esercito, queste cose, ma io penso, non so, che non è tanto dell'opposizione, perché Ma un'altra cosa invece volevo chiederti, ma in Spagna si parla anche di Rashida Dati e del fatto che il padre potrebbe essere Aznar? Sì, si è parlato abbastanza di questo, adesso è un po' passato il tema, però sì, si è parlato qualche tempo fa. Un'altra cosa, visto che stiamo parlando con te, ne approfittiamo, c'è un grande attacco da parte della Chiesa al governo Zapatero, a parte che il governo Zapatero ha approvato la legge sui matrimoni omosessuali e poi adesso c'è questa polemica sul crocefisso negli edifici pubblici, giusto? Sì. E come reagisce il governo? C'è questa Spagna divisa tra un governo di centrosinistra e un'opposizione centrodestra che poi cavalca la Chiesa spagnola? Sì, adesso c'è abbastanza controversia del, per esempio, questo del crocifisso. È stato chiaro, no? Che la Chiesa è stata abbastanza, che non è d'accordo, no? Con questa sentenza del, dice, anche se non, in realtà non dipende dal governo, quello è stato, sono stati i giudici, no? Però sì, in generale l'atmosfera è quella, che c'è molto confronto fra la Chiesa e il governo di Zapatero, adesso anche per la tematica dell'aborto, è quella che è più di attualità, in generale la famiglia, sì, per la Chiesa che è un problema il governo di Zapatero. Però il governo Zapatero ha rappresentato una sorta di rivoluzione dei costumi in Spagna. Sì, perché in poco tempo ha approvato tante cose che sono molto nuove per la Spagna, anche penso sarebbero molto nuove pure per l'Italia e altri paesi. E allora è questo, no? La tempistica è stata molto rapida e per questo la Chiesa un po', almeno all'inizio c'era molta freddezza. Secondo me adesso la Chiesa è un po' anche abituata a questo che sta accadendo, dice la sua, ma le cose sono così, nel senso che si sa che la Chiesa di solito non sarà d'accordo con, per esempio, una ampliazione della legge dell'aborto, adesso che è quello che si cerca. E questa legge nuova dell'aborto come sarà praticamente? Che cosa comporta rispetto a quella del passato? In realtà vuole liberalizzare un po' di più l'aborto in Spagna, e anche se ancora non si sa tanto, è in piena discussione questo argomento. È in piena discussione. No, infatti la legge 194 è da sempre in piena discussione in Italia, che è appunto la legge che regolamenta l'aborto nel nostro paese. Allora, torniamo a Roselina Salemi, giornalista della Stampa. Abbiamo sentito Ariel Dumont che diceva Rashida Dati doveva tornare al lavoro perché, Zapatero la voleva un po' fare fuori. Sarkozy la voleva fare fuori. Quindi gli intrighi politici l'hanno portata poi a riconquistare subito il posto di lavoro. Sì, però che ci sta col senso di onnipotenza, il fatto che appunto abbia tanti nemici, che abbia litigato, che si sia imposta come donna forte, ci sta anche con il comportamento che ha avuto. È una che si vuole giocare tutto, ma è anche una che vuole tutto, vuole la maternità, vuole il potere, che è proprio una caratteristica di una specie mutante femminile che sta emergendo in questi ultimi anni. Quindi quello che io ho detto non è poi in contrasto con la sua situazione. Lei, nonostante sia una situazione speciale, ha appena avuto una bambina, non perde di vista il suo obiettivo, sa che la politica è un affare molto complesso e che non bisogna mai allentare la presa, in effetti non lo allenta, quindi ci sta un po' con questo profilo onnipotente che alcune donne di oggi hanno. Chi potrebbe essere una Rashida Dati in Italia, o anche magari una Carm Chacón in Italia? Esistono? Io mi auguro che all'interno di questo governo, dove ci sono parecchie giovani donne, qualcuna venga fuori con capacità sorprendenti. Che nell'area della maternità ce ne sono diverse, quindi potremmo anche avere delle sorprese. Io trovo che questo governo ha una come la Gelmini, che è single, però in realtà forse aspira, appunto, forse c'è anche già un fidanzato, potrebbe essere benissimo una Rashida Dati, oppure oppure anche altre. Giorgia Meloni è molto giovane, è molto determinata, cioè direi che questo è un governo che offre delle possibilità, visto che ci sono delle donne giovani. Ricordiamo che poi ci sono state anche ministre che sono rimaste incinte, hanno partorito, sì, certo, durante la gravidanza, la Prestigiacomo, insomma ce ne furono, sì, anche in Italia. Ce ne sono state due, Giovanna Melandri e la Prestigiacomo. Infatti era quello che volevo dire, quindi insomma, no? Anche però ecco, diciamo che non ci abbiamo avuto l'esperienza del ministero forte, perché la giustizia è un ministero forte, non c'è mai stata una donna negli esteri, negli interni, cioè non ci sono state donne in quei ministeri che ti richiedono appunto di andare a visitare la missione afghana e, no, però e conciliarla con tuo essere madre. Sì, però c'è stata Rosetta Russa Iervolino, che è stata ministro degli interni e che adesso come sindaco, appunto, come nonna sindaco, diciamo, sta mostrando una certa determinazione, anche tenendo, diciamo, le redini di una crisi non facile da risolvere, con contrasti abbastanza forti con Walter Veltroni, no? Non ci sono state donne in situazioni di questo tipo estreme, cioè una donna incinta che è ministro degli interni o della difesa e che si trova ad affrontare un problema, per cui ecco, come è stato con Carmen Chacón, si è preso l'aereo militare col ginecologo al seguito ed è andata in Afghanistan e ha dimostrato che poteva farcela. Quindi noi non le abbiamo vissute, però diciamo che i segni ci sono, cioè c'è una classe politica più giovane, donne più giovani che sta raggiungendo faticosamente il potere, con quella componente anche di visibilità, di fascino, ecco, che è una caratteristica dell'apparire nei nostri tempi, e quindi chissà, potremmo avere qualche sorpresa. I governi si rimpastano, nessuno può mai dire quello che succede. La quota rosa. Allora, Cristina Kappelin, corrispondente svedese in Italia per Dagens Industri, un erede al trono che è finalmente una donna, come ci hai detto tu, dopo la legge del 1980, che però non si può sposare perché è contrastata dalla famiglia, un grande amore contrastato. Come se ne esce in Svezia? Ma guarda, è da vedere, se secondo me in questo ci sarà un... come posso dire, dovranno decidersi, ecco, non è più complicato di così, perché chiaramente se lei non farà un figlio e allo stesso tempo gli altri due fratelli non si possono sposare, oddio, in realtà nessuno dice che non possono avere figli, ma in ogni caso la monarchia resta senza eredi e ovviamente questo potrebbe diventare un piccolo problema. Comunque vorrei solo dire una cosa a proposito delle due ministre di cui certo abbiamo parlato, ed è che dal mio orizzonte comunque mi chiedo fino a che punto questo è eroismo femminile o voglia di essere superdonna, o non semplicemente dei segnali di società molto maschilista ancora, dove resta impossibile per una donna essere sia donna che potente, cioè dovrebbe essere normale che una giovane donna in politica possa anche rimanere incinta, avere un figlio e fare un normale tempo di maternità in casa, sostituita da qualcun altro nel frattempo, qualcuna, e poi tornare. Cioè io lo vedo più che altro come un modo di, cioè con delle società che ancora non hanno fino in fondo accettato le donne in posizioni di potere. Tu quindi ci dici, Rashida Dati doveva praticamente poter avere una maternità normale pur essendo ministro della giustizia. Ma io penso di sì, cioè io adesso i non cinque so... mesi canonici italiani, per esempio. Assolutamente, perché no, scusi, cioè perché cioè deve essere estremamente doloroso, io credo, lasciare un neonato dopo cinque giorni per occuparsi solo di questioni di Stato, e in tutti i paesi ormai si predica l'allattamento al seno, come lo fa, eccetera. Cioè io veramente vorrei che non fosse così, vorrei che appunto se le società erano veramente uguali, se si dava la stessa opportunità alle donne e agli uomini, sarebbe totalmente possibile restare a casa 5 mesi per una donna, così come un padre ministro che avrebbe il diritto della paternità. Ma mi sembra che ci fosse anche una ministra norvegese, mi sembra comunque di un paese scandinavo, che andò a un consiglio dei ministri avendo partorito col bebè al seguito, no? Esatto, abbiamo visto anche questo, che va bene, uguale, cioè così il bambino si riesce, essendo ministro, anche avere una persona che magari possa fare d'assistente, e si può fare il ministro e si può fare la mamma con il bambino insieme. Allora, vediamo Ariel Dumont. Tu hai parlato di un contrasto tra Carla Bruni e Rachida Dati. Insomma, in un paese come la Francia, dove c'è stata questa svolta con Sarkozy, per cui un presidente diventa anche uno showman, no? Perché la sua vita privata diventa un po' una vita sui giornali patinati, sui giornali rosa, sui giornali di gossip, divorzio da una moglie, si sposa un ex modella. Queste due donne come sono diverse tra di loro? Probabilmente queste due donne non sono completamente diverse, sono due donne di potere, nel senso che Carla Bruni ha sposato Nicolas Sarkozy in fretta e furia. Sì, certo, forse c'era la componente amorosa, ma c'è comunque una grande voglia di potere, perché una donna che conosceva tutto il mondo, che aveva sempre avuto degli amici, degli amanti, dei fidanzati, dei compagni abbastanza potenti, ognuno nel suo campo, diciamo che sposare Nicolas Sarkozy e diventare la prima donna di Francia in un paese dove comunque c'è una grande visibilità, da questo punto anche, è una questione di potere. Per tornare anche un attimino invece sul personaggio di Rachida Dati, credo anche che il fatto di tornare dopo 5 giorni al lavoro fosse anche corrispondere perfettamente all'immagine che Sarkozy vuole dare della Francia, una Francia attiva dove si lavora di più, dove si sta sempre in movimento. Quindi tornare così dopo 5 giorni era rispondere completamente a queste esigenze. Ecco, ma la differenza, perché ci sono due premier, cioè un presidente e un premier in Italia e in Francia, cioè c'è Nicolas Sarkozy che mostra la sua vita privata, no? Fa show di questo suo legame con Carla Bruni, e poi c'è invece Silvio Berlusconi che in questo, anche avendo avuto 2 matrimoni eccetera, è molto più privato. In un certo senso, oppure forse un pochino più privata la First Lady Veronica Lario? In effetti io direi che in questo caso è molto più privata Veronica Lario, perché non mi sembra, secondo quello che dicono i giornali italiani, che Silvio Berlusconi sia così discreto nelle sue, come dire, amicizie, una persona che esteriorizza molto tutto quanto, quindi credo che sia dovuto comunque molto al fatto della personalità di Veronica Lario, che ha cercato e ha voluto rimanere proprio non al buio, però in una sua dimensione totalmente privata, probabilmente perché ritiene che lei non ha niente a che vedere con la vita di Stato, che ha privilegiato la vita di famiglia per tanti motivi personali, però sono delle personalità completamente diverse da quel punto di vista, non dal punto di vista dei personaggi maschili, ovvero Sarkozy e Berlusconi, ma probabilmente dalle due personalità della Bruni e di Veronica Lario. Certo, Roselina Salemi, sei d'accordo? E soprattutto a questo punto noi tifiamo Veronica Lario rispetto a Carla Bruni, un po' più discreta. Veronica Lario è una persona che ha fatto una scelta di vita privata molto discreta, ha manifestato anche qualche disaccordo col suo celebre lettera, no? La lettera questo Repubblica. Le ha anche conquistato delle simpatie in aree insospettabili, dunque anche in lei c'è forse una capacità importante di ritagliarsi uno spazio, un suo marketing in questo essere in disparte, in questo suo essere leggermente in dissenso. Un modo forse quasi di risaltare un pochino di più da questo marito ingombrante, potente, che può mettere in ombra chiunque. Quindi io trovo che sia Assolutamente vero rispetto a Carla Bruni, che è tutt'altro tipo, ma che ci sia anche un'astuzia dolce in questo comportamento. Allora, noi ringraziamo le nostre ospiti e adesso andiamo a teatro. Figlie di Scheherazade, teatro Piccolo Iovinelli di Roma, raccontare per salvarsi la vita, scritto e diretto e interpretato da Chiara Casarico e Tiziana Scrocca. E abbiamo con noi appunto Tiziana Scrocca. Di che cosa parla questo spettacolo? È uno spettacolo al femminile, che cosa raccontate al pubblico? Raccontiamo due storie intrecciate di due donne, sono due storie vere, di Aisha e Zoya. Queste due storie si intrecciano, due vite molto difficili legate proprio alla violenza. Aisha è una ragazza che è turca, che vive in Germania, che non riesce ad integrarsi perché la famiglia vuole farla sposare con un turco, mentre lei si innamora con un tedesco e subisce per questa sua scelta violenza dai familiari. Mentre Zoya è un'attivista politica afghanista, che ritorna nel suo paese dopo 5 anni di esilio e trova il suo paese così rovinato, così distrutto, e fa una lotta molto dura per riconquistare i diritti, per aiutare le donne a sopravvivere, soprattutto più che conquistare i diritti, proprio a sopravvivere. Tu sei sul palcoscenico insieme a Chiara, e che cosa è? È un racconto a due voci? Racconta due voci, si è intrecciato, anche perché tra queste storie ci sono molti paralleli e molte analogie, una ritorna, l'altra scappa, tutte e due hanno un problema di identità molto forte, infatti iniziamo con la carta d'identità, nessuna porta il suo nome vero, una perché vive in clandestinità per scappare ai genitori e l'altra perché sempre vive in clandestinità in un paese come l'Afghanistan per non farsi trovare, no? Quindi hanno tanti rimandi, una è una mamma negativa, una mamma positiva, una è un problema personale, una è un problema di carattere più sociale, e quindi c'è questi intreccio, questi monologhi intrecciati. Fino a quando siete al Teatro Piccolo Iovinelli di Roma? Fino al 18 gennaio. Poi cercherete di andare in tournée? Noi già abbiamo fatto diverse tournée in giro, siamo stati a Venezia, a Milano, a Padova, insomma molto al nord abbiamo fatto lo spettacolo. Adesso speriamo di farlo più possibile a Roma e anche scendere, insomma. Il pubblico è femminile o maschile? Tutte e due, e anche gli uomini rimangono molto molto colpiti, perché c'è una riflessione in generale sulla dignità umana e sui diritti fondamentali. Allora, io ringrazio Tiziana Scrocca, lo ricordiamo, con Figlie di Scheherazade al Teatro Piccolo Iovinelli di Roma fino al 18 gennaio. Ringrazio Paolo Corleone in regia, Gloria Guerrera in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla quotarosa@radio24.it. Una buona giornata da Elisabetta Fiorito.